La parola del Signore fu nuovamente rivolta a Geremia mentre stava ancora rinchiuso nel cortile della guardia in questi termini. Così dice il Signore, che ha fatto la terra, l'ha plasmata rendendola stabile, il cui nome è Signore. Chiamami ed io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Sì, così dice il Signore Dio di Israele riguardo alle case di questa città e riguardo alle case dei re di Giuda che saranno distrutte dai terrapieni e dalla spada dei Caldei venuti a combattere per riempirle con i cadaveri degli uomini che io avrò colpito nella mia ira e nel mio furore, perché io ho nascosto la mia faccia da questa città a causa di tutta la loro malvagità. Ecco, io farò rimarginare la loro ferita, avrò cura e li guarirò, li inonderò con abbondanza di pace e di sicurezza. Farò ritornare gli esiliati di Giuda e gli esiliati di Israele e li riedificherò come al principio. Li purificherò da ogni loro iniquità con la quale peccarono contro di me e perdonerò tutte le loro iniquità con le quali si ribellarono a me. E diverrà per me motivo di gioia, di lode e di gloria avanti ad ogni nazione della terra, quando apprenderanno tutto il bene che io procurerò loro. Allora temeranno e tremeranno a causa di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a lei. Così dice il Signore: in questo luogo del quale voi dite è una rovina, senza uomini e senza bestiame, per i monti di Giuda e per le vie di Gerusalemme devastate non ci sono uomini e non ci sono abitanti né bestiame, si sentirà ancora voce di gioia e voce di letizia, voce di sposo e voce di sposa, voce di chi dice portando sacrifici di lode nella casa del Signore: lodate il Signore degli eserciti, poiché è buono il Signore, poiché è perenne la sua misericordia. Sì, io riporterò gli esiliati dal paese come in principio, dice il Signore. Così dice il Signore degli eserciti: ancora ci sarà in questo luogo distrutto, senza uomo e senza bestiame, e in tutte le sue città, pascolo per i pastori che fanno riposare le pecore. Per tutte le città della montagna, per le città della Sefela e per le città del Negev, nel territorio di Beniamino e nei dintorni di Gerusalemme e per le città di Giuda, passeranno ancora le pecore sotto la mano di chi le numera, dice il Signore. Ecco che stanno per venire giorni, dice il Signore, nei quali io realizzerò questa parola di felicità che ho pronunciato in favore della casa di Israele e in favore della casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germinare a Davide un germe di giustizia che opererà diritto e giustizia nel paese. In quel giorno sarà salvato Giuda e Gerusalemme abiterà fiduciosamente. Essa sarà chiamata il Signore giustizia nostra. Infatti così dice il Signore: non mancherà a Davide chi sieda sul trono della casa di Israele e ai sacerdoti leviti non mancherà alcuno dinanzi a me che offra olocausto, che faccia profumare offerta e compia sacrificio ogni giorno. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Così dice il Signore: se si potesse violare il mio patto con il giorno ed il mio patto con la notte, cosicché non ci sia più giorno e notte al loro tempo, allora cesserebbe anche il mio patto con Davide, mio servo, cosicché non ci sia per lui un figlio che regni sul suo trono, ed anche con i Leviti sacerdoti, miei ministri. Come non si può contare l'esercito del cielo, e non si può misurare la sabbia del mare, così moltiplicherò la discendenza di Davide, mio servo, e i Leviti, miei ministri. La parola del Signore fu ancora rivolta a Geremia in questi termini: non hai tu constatato ciò che questo popolo ha affermato dicendo: le due famiglie che aveva eletto il Signore le ha anche annientate? Così disprezzano il mio popolo, quasi non fosse una nazione dinanzi a loro. Così dice il Signore: se non esistesse il mio patto con il giorno e la notte, se non avessi stabilito leggi con il cielo e con la terra, anche la stirpe di Giacobbe e di Davide, mio servo, rigetterei, così che io non prenda dalla sua discendenza dei dominatori sulla progenie di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma io farò ritornare i loro esiliati e ne avrò compassione.